Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble and holy self-enlightened one. Omaggio a Buddha, al beato, al nobile e al pienamente auto-illuminato. The first thing we have to understand is what the Buddha means by right awareness. Quindi la prima cosa che dobbiamo capire è cosa intende il Buddha con le parole retta consapevolezza, la giusta consapevolezza. Then we need to have some idea how to deal with unwholesome mental and physical states. Poi dobbiamo avere una qualche idea su come gestire gli stati mentali e fisici non salutari. And then we need to know what it is we're actually investigating. E poi dobbiamo sapere che cos'è che effettivamente stiamo investigando, stiamo ricercando. So, one of the best ways to understand right awareness is to just review very quickly the life of the Buddha himself. Quindi un modo per sapere esattamente cosa si intende per la retta consapevolezza è ripassare un attimo, passare in rassegna la vita stessa del Buddha. So he lived a comfortable life. Quindi lui aveva vissuto una vita comoda, but agiata. But somewhere in his 20s he became dissatisfied with sensual pleasure. Ma poco dopo i 20 anni ha cominciato a essere un po' insoddisfatto riguardo ai piaceri sensoriali. He seems to have come to the end of sex, drugs and rock and roll. Pare che sia arrivato proprio alla fine di quel periodo che normalmente viene chiamato droga, sesso e rock and roll. And he also seems to have suffered from what we would call an existential crisis. E poi sembra che abbia sofferto di quello che noi oggi chiameremmo una crisi esistenziale. Because in the mythology, while he was out hunting, he comes across a very sick person, very old person, a corpse, and an ascetic sitting under a tree. Pare che insomma, la mitologia narra del fatto che quando era fuori a caccia incontrò una persona malata, una persona anziana, e poi un cadavere e infine un asceta seduto sotto un albero. So he recognized that his life was moving towards sickness, aging and death. E quindi si rese conto che anche la sua vita stava andando nella direzione della malattia, dell'invecchiamento e della morte. And the ascetic suggested that maybe there was an escape. E questa asceta però suggeriva il fatto che forse c'era una via d'uscita. Because remember in those days it was generally accepted that people simply were reborn life after life. Perché in quei giorni era accettato così a livello generale che una persona nascesse e poi morisse e c'era questo ciclo di nascite e morti una vita dopo l'altra. So he leaves home and seeks some teachings from the ascetics. Quindi lui lasciò la sua casa e cercò degli insegnamenti tra gli asceti. And the first two teachers teach him how to attain very ecstatic states of mind. I primi due insegnanti gli insegnano a raggiungere degli stati estatici della mente. These you find in all religions. E questi sono stati che si trovano in tutte le religioni. By prayer, by mantra. Attraverso la preghiera, attraverso dei mantra. Even the metta that we did last night, if you do that long enough, often enough, you see, you'll create a beautiful internal mental state. anche la pratica di metta che abbiamo fatto ieri sera, se lo fate in maniera intensiva e continuativa, può produrre questi stati mentali bellissimi, elevati. So you can see, if you can create this inner beauty, this inner ecstasy, well, all you need is a couple of rag robes, a tree, and a bowl for some food. Quindi vedete che quando riuscite a arrivare a, a raggiungere questi stati così di estasi, no, meravigliosi nella mente, tutto ciò che vi serve è un abito da monaco, di stracci, diciamo, una ciotola e poi un albero sotto il quale sedervi. Basta. However, when the mood, when that mental state passed, he was the same old depressed, anxious Gautama. Però purtroppo quando passava questo bellissimo stato mentale, questo stato d'animo, lui tornava a essere quel Gautama ansioso e depresso di sempre. So he tried what mortification exercises. Allora a quel punto cercò di fare delle pratiche di mortificazione. The understanding was that the soul was weighed down into this form of existence by karma, by bad deeds. Perché c'era questa idea che l'anima fosse in qualche modo appesantita, no, all'interno del corpo dalle cattive azioni che si compivano. Through mortification exercises, the weights were dropped off the soul. E quindi è come se attraverso questi esercizi di mortificazione, mano a mano si perdevano questi pesi che tenevano legata l'anima. And the soul then would drift up to a heavenly place. E a quel punto poi l'anima poteva salire in qualche stato celestiale. And what created this bad karma was an attachment to life. Quello che creava questo cattivo karma era l'attaccamento alla vita. So the Jain monk eventually starves themselves to death. Quindi questi monaci jainisti prima o poi arrivavano proprio a morire di fame. Just to let go of the body, you see. Era un modo per lasciare andare il corpo. So he tried this, but he found that it was just more suffering. Quindi Ludo provò anche queste pratiche, ma scoprì che non erano altro che un'ulteriore sofferenza. And he got very thin. E diventò molto magro. And so he decided that to leave the practice. E decise a quel punto di lasciar perdere questa pratica. And he is standing by, he's on the roadside, in a state of wondering what to do with his life, a state of despair. Quindi era lì seduto lungo la strada chiedendosi cosa fare della sua vita in questo stato di disperazione. Since he has now been to all the teachers and the answer has not yet come. Lui aveva passato in rassegna tutti gli insegnanti, ma non aveva ancora trovato una risposta. Is there an escape from suffering? Quindi c'è, effettivamente ci sarebbe stata una via d'uscita dalla sofferenza. So as the story goes, a woman is passing by with an offering for a local god. Quindi si racconta appunto che di lì passò una donna, una giovane donna, con un'offerta per una divinità locale. It was rice cakes, but I prefer rice pudding. Pare che fossero delle, come dire, Kiriba, dei tortini di riso, ma Bante preferisce pensare che fosse un budino di riso, quelli che si trovano in Inghilterra. So, when he offered this, when she offered this to this poor monk, it revived him. Quindi quando questa donna offrì questo riso al povero monaco, questo lo, come dire, gli diede un po' di vita, no? Rivitalizzò. And so there came to him around that time a memory from childhood. E a quel punto gli arrivò un ricordo dalla sua infanzia. Watching his father doing a plowing ceremony. So, quindi si immaginò seduto mentre osservava suo padre che faceva una cerimonia per la aratura dei campi. It was the concentration of the child which he remembered. Quindi si ricordò questo stato di concentrazione di un bambino. But this concentration was also flavored with curiosity. Ma ma era una concentrazione che era in qualche modo condita, diciamo, con la curiosità. So now you have to bring a child's face to mind. Quindi portate alla mente questo, il viso di un bambino. So when they see, for instance, a bug they've never seen before. Quindi quando questi bambini vedono un insetto che non hanno mai visto prima. Their eyes fixate. Gli occhi si fissano. The mind stops. La mente si ferma. The jaw drops. La mandibola cade. When the jaw drops, that means there's no thinking. Quando la mandibola cade, questo significa che non c'è pensiero. The tongue and thought are intimately connected. Perché la lingua e il pensiero sono collegati intimamente. And of course, when a parent sees this, they usually shake the child, wake him up. Quando un genitore vede il bambino in questo stato, di solito gli dà una scrollata per svegliarlo. See? So in this way, all of us could have been fully liberated years ago. Quindi se questo non fosse avvenuto, tutti noi saremmo potuti essere pienamente illuminati anni fa. So when the child actually has absorbed the bug, then it asks the question, what is it? È solo quando il bambino ha completamente assorbito, diciamo, questo insetto che si rivolge all'adulto e chiede, che cos'è? Now you see, this is our problem. From that moment on, this child never sees a bug. Ed è questo il nostro problema, perché da quel momento in poi quel bambino non vedrà più veramente l'insetto. Because every time the child sees the bug, they put their past concepts of a bug onto that bug. Che ogni volta che vedrà un insetto metterà questo concetto precedente dell'insetto sull'insetto, cioè lo appiccicherà come un'etichetta. So this is our big problem. E questo è il nostro grosso problema. Our task in meditation is to rediscover the child's mind. Quindi il nostro compito nella meditazione è riscoprire questa mente di un bambino. And to do that, thought has to stop. E per fare ciò i pensieri devono fermarsi. And we do that when we place our attention on sensations and feelings. E questo accade quando noi mettiamo la nostra attenzione sulle sensazioni. Because sensations and feelings only arise in the present moment. Perché le sensazioni accadono solo nel momento presente, le sensazioni e le percezioni, possiamo dire in italiano. And in Buddhist psychology you can only have one conscious moment at a time. E secondo la psicologia buddista noi possiamo avere solo un attimo di coscienza per volta. So when we're practicing and we are saying rising, falling. Quindi quando siamo in meditazione che pratichiamo e etichettiamo alzare e abbassare. There is one moment of feeling feelings. C'è solo un attimo in cui percepiamo le sensazioni. And there's one moment of a mental recognition. E poi c'è un attimo successivo di riconoscimento mentale. Now the purpose of this particular method is to stop this thinking mind wandering all over the place. Quindi la funzione, diciamo, lo scopo di questo particolare metodo è di impedire che la mente divaghi di qua e di là. So we begin by reducing the intellect to a very simple concrete word. Quindi cominciamo con questa operazione del ridurre l'attività intellettuale ad una sola parola. And then as we begin to practice, you see, the attention is more and more fixed on the sensation. E man mano che pratichiamo l'attenzione diventa sempre più fissata su una sensazione. As this becomes more and more steady, you see time collapses. E quando questo diventa sempre più stabile, allora a quel punto il tempo è come se crollasse. And we become aware only of one conscious moment after the other, you see. E siamo consapevoli di un momento di coscienza, di un attimo di coscienza dopo l'altro, basta. And at this point the thinking stops. A questo punto tutta l'attività del pensare smette. There's no time for thought to get in. Perché non c'è il tempo perché un pensiero possa infilarsi. So these are our true vipassana moments. E questi sono i nostri veri momenti di vipassana. But to get to this place is very difficult. Era molto difficile arrivare a questo punto. Yeah. So over a weekend is very very difficult. L'arco di un weekend è molto molto difficile. Over 8 days, maybe we can have some moments of absolute oneness. Nell'arco di una settimana o 10 giorni, quello che è, potremmo avere qualche minuto di questi, qualche esperienza di questa oneness, come dire, un tutt'uno, questa comunione col presente, diciamo così. But we should not despair. Ma non disperiamoci. Because even if we, even at just observing and noting, this is also an insightful practice. Perché anche solo l'osservare e il notare, questo già è una pratica che ci porta qualche intuizione profonda. Sì. Now, what we have, now what we need to be able to see is what takes the mind away. Quello che dovremmo riuscire a vedere è ciò che, che porta fuori la mente. So there are all those things that make us fall asleep. Quindi queste ci sono, per esempio, tutte quelle cose che ci fanno addormentare. Yeah, dullness of mind and heaviness in the body. Quindi la mente un po' così annebbiata e questa pesantezza nel corpo. So when that comes, when those comes, you see, we make an effort to keep awake. Quando ciò accade, allora facciamo uno sforzo per stare svegli. Try noting quicker and try moving the attention around the body. Quindi possiamo provare a velocizzare, diciamo, queste etichette mentali, questo notare, e anche spostare l'attenzione in altri punti del corpo. Try to discover where this tiredness is felt. Provate a capire dov'è che sentite di più questa stanchezza. Did you ever feel tired at the end of your nose? Siete mai sentiti stanchi sulla punta del naso? No. So. Then there's all those other mental states that take us away. Poi ci sono tutti quegli altri stati mentali che anche essi ci portano via. So those that we enjoy, like planning a holiday or something. Quelle attività mentali che ci piacciono, come programmare una vacanza. There are all those little angers and disturbances and. In tutte quelle nostre piccole rabbie, i nostri fastidi. There's guilt, shame, horror. C'è il senso di colpa, la vergogna, o l'orrore. Fear, despair. La paura, la disperazione. Oh, what miseries. Quali miserie. So when these come up, you see, don't let the mind wander. Quindi quando sorgono questi stati non lasciate che la mente divaghi. Because this is how the mental state develops itself. Perché è così che lo stato mentale poi si sviluppa. So as soon as we wake up, we come back into the body. Quindi appena ci svegliamo, ce ne accorgiamo, torniamo al corpo. Now on the way down to the breath, we may feel the emotional state. Mentre scendiamo per contattare il respiro, potremmo sentire questo stato emotivo. So stay there. Wait, stay there, feel it, allow it to express itself. Quindi state lì, percepitelo e permettetegli di esprimersi. And in so doing, you see, the energy is expending itself, it's destroying itself, you see. In questo modo questa energia è come se si espandesse, si autodistruggesse. But it's not completely destroyed because it always transforms to its opposite. Ma non è completamente distrutta perché si trasforma sempre nel suo opposto. So for instance all the hatred and anger you'll see turns into love. Quindi vedrete che tutto questo odio, questa rabbia si trasforma in amore. So a lot of our practice is being able to sit patiently with the fire. Quindi molte della nostra pratica proprio si tratta proprio di stare seduti con il fuoco. Now as we are doing that, we also notice that these things are in a constant state of flux. Mentre lo facciamo noteremo anche che tutte queste cose sono in un continuo stato di flusso. When we really see that, why do we want to hold on to it? E quando riusciamo a vederlo chiaramente, allora perché cerchiamo di trattenerle? Ah, See? So we begin to develop an attitude of allowing things to arise and to pass away. Quindi sviluppiamo questo atteggiamento dove permettiamo le cose di sorgere e di passare. Mm. But what is it that makes us stick? Ma cos'è che ci fa come dire, afferrare, aggrappare a queste cose? So we have this process of desire. C'è questo processo del desiderio. Mm. So there's the desire to hold on to what we like. C'è questo desiderio di trattenere ciò che ci piace. Mm. So when we feel that desire, you see, we have to also observe it and allow it to pass away. Quindi quando vediamo nascere questo desiderio, dobbiamo accorgercene e lasciare che passi. Mm, have to feel it and let it pass away. Lo dobbiamo percepire e lasciare che vada. So, and when it's something we don't like, you can feel the resistance, you don't want to feel it. Quando c'è qualcosa che non vi piace, potete sentire la resistenza. No, noi non vogliamo sentirla. So you have to feel the resistance, you see. Quindi dobbiamo sentire la resistenza. And let it wait for it to pass away. Anche di aspettare che vada via. Mm. So in this way, we are trying to discern what do we mean by suffering. Quindi in questo modo stiamo cercando di capire, di discernere cosa intendiamo per sofferenza. See, according to the Buddha, there are two darts, two arrows. Secondo il Buddha ci sono due frecce. Mm. The first one is given, we can't do anything about it. La prima è un dato di fatto, non possiamo farci nulla. Mm, it's like physical pain. Come il dolore fisico. And like our emotional pain from past behavior. E anche il nostro dolore emotivo che deriva da un comportamento passato. If we can find a way of being open, equanimous, non-reactive. Però se troviamo un modo per essere aperti, equanimi e non reattivi. Mm, are we actually suffering? Stiamo veramente soffrendo? Or does the suffering really only begin when I either indulge or resist? O piuttosto la sofferenza nasce quando io indulgo, quindi mi lascio andare, o resisto. Vedo attirato dentro o resisto. So this we have to be careful to observe. Quindi dobbiamo stare molto attenti a osservare proprio questo. Mm. And then finally, we see that we don't have as much control as we think we have. E poi vediamo che non abbiamo tutto quel controllo che pensiamo di avere. We think we control our thinking. Beh, pensiamo di poter controllare il nostro pensiero. But we find our thinking controls us. Ma poi scopriamo che è il nostro pensiero che controlla noi. We think that we are the ones in charge of our emotions. Crediamo di essere noi che siamo in controllo delle nostre emozioni. But it's our emotions that grab us by the nose and lead us on. Ma sono le nostre emozioni che ci prendono per il naso e ci trascinano. And in the body, I mean, how much control do we have? Rispetto al corpo, beh, quanto controllo abbiamo sul corpo? I can wave my arms around. Io sì, se voglio posso muovere le braccia, sventolare le braccia. But I can't make them grow any longer. Ma non posso farle crescere più lunghe. So then we begin to have a very different relationship to the body. Allora cominciamo a sviluppare una relazione diversa con il nostro corpo. Mm, it's as though we've rented it. È come se l'avessimo preso in affitto. Mm. And it's the same with emotions. E lo stesso vale per le emozioni. Ah, they're given, the thoughts as well that we have. Quindi si vengono date anche i pensieri che abbiamo. Mm. And in the position of the observer, the feeler, the knower. Quindi in questa posizione dell'osservatore o di colui o colei che conosce o che percepisce. Mm. You can see that there's a mental space, you can say. Potete vedere che c'è come se fosse uno spazio mentale. Between this intuitive awareness and what it is that it's actually looking at. Quindi uno spazio tra questa consapevolezza intuitiva e ciò che effettivamente sta guardando. Sì. I expect everybody to nod vigorously. Si aspetta che tutti facciano di sì con la testa vigorosamente. So this, this mental space within us, you see. For instance, if I have a pain in my knee, huh? I'm up here, somewhere in here, feeling the pain down there. There's a space, huh? Quindi, per esempio, se io ho un dolore al ginocchio, c'è qualcuno quassù che lo sta osservando, quindi c'è uno spazio. So this means this knee is not me. Quindi questo significa che questo ginocchio non sono io. Me is up here looking down here. Perché io sono quassù che guardo giù. So when I go inward to my emotions, to my thoughts, see, I'm looking, there's something looking at them. Quindi quando io vado dentro, osservo le mie emozioni, i miei pensieri, c'è qualcuno che le sta osservando. So this is beginning to understand the teaching of not me, not mine. Questo è l'inizio della comprensione di quell'insegnamento del non mio, non io. Yeah. So, we have tried to define what the Buddha means by right awareness. Abbiamo cercato di definire cosa intende il Buddha per retta consapevolezza. There is awareness. C'è la consapevolezza. Mindfulness. La presenza mentale. But also this curiosity. Ma anche questa curiosità. These two words, sati, panya, always come together in the main scripture on how to practice this meditation. Queste due parole in pali, sati e panya, vengono sempre insieme. Sati, panya, vengono sempre insieme quando si tratta di appunto della pratica, di come praticare, come meditare. Okay. So the best translation might be intuitive awareness. Quindi la migliore traduzione sarebbe proprio questa consapevolezza intuitiva. These are not two things, they're the same quality, they're the same faculty. Quindi non sono due cose separate, ma appartengono alla stessa facoltà. We have it, for instance, when you say you look at something and then you see it. Per esempio, ce l'abbiamo quando diciamo che noi osserviamo qualcosa e poi la vediamo. See? So if you hear a bird, you look for the bird and then you see it. Se sentite un uccello, per esempio, prima cercate l'uccello e poi lo vedete. If you don't look for the bird, you never see it. Ma se non cercate l'uccello non riuscirete poi a vederlo. So when we're meditating, we are looking at these three characteristics of existence. Quindi quando meditiamo noi stiamo osservando, stiamo guardando queste tre caratteristiche dell'esistenza. How everything arises and passes away. Come tutto sorge e passa. How we create suffering by our reactions. Come noi creiamo la nostra sofferenza attraverso le nostre reazioni. Indulging and resisting. Nel desiderare qualcosa, nel resistere. And how we cause suffering through identity. E come creiamo la sofferenza attraverso l'identificazione. If I say I am depressed. Perché se io dico sono depresso. Where's the escape? E dov'è allora la via d'uscita? I'm already in hell. Sono già all'inferno. And then we have to know how to develop our skills not to be drawn away by the mind into its fantasies. Poi dobbiamo sviluppare quelle capacità che fanno sì che non siamo trascinati dalle fantasie della nostra mente, trascinati fuori da noi stessi. So when we are feeling sleepy or tired, just making the effort to stay awake is often enough. Quindi quando ci sentiamo stanchi o assonnati, anche solo lo sforzo di stare svegli è già sufficiente. And with all the other things that we fantasize about, it's always a case of recognizing the attitude. Quindi per quanto riguarda tutte le altre cose che sono frutto della nostra fantasia, si tratta sempre di riconoscere il nostro atteggiamento. And then to feel it in the body as a force. E poi di sentire la sua forza, la sua energia dentro il corpo. And then to allow it to pass away. E poi permettergli di andare, di passare. So over the next 2 days, of course, we'll look at this a bit more deeply, but for the time being, just try to work with what you're experiencing now. quindi questo lo vedremo un po' meglio nei prossimi giorni, ma per il momento cercate di capire veramente che cos'è che state sperimentando nel presente. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. By your clarity and devotion to practice. Attraverso la vostra chiarezza, la devozione alla pratica. You will be liberated from all sufferings. Sarete liberi da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu. Ah, yes. I feel good when somebody says sadhu. Mi sento bene quando sento sì. So if you do a little walking meditation, and then facciamo un po' di meditazione camminata, and then we'll come for a sitting just before lunch. E poi verremo per una seduta poco prima di pranzo. Yes. No, if you ring the bell.